C'ho voglia di vento talmente forte da scavarmi il volto e piegarmi le guance e fermare un po' il pianto, solamente perché tutto questo tormento arrivato col vento andrà via con un pianto in un soffio soltanto e soltanto volando. Che il vento mi porta l'eco delle distanze, ma attraverso le porte si stringe in un pianto, fa come un lamento e mi parla di te. Perché il vento mi porta il suono dell'orizzonte, ma attraverso le porte si stringe il lamento, si libera il pianto e poi canta con me. Io te amo, mio amor, io te amo, mio amor, io te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mio amor, io te amo, mio amor. Nel vento andrà via sorridendo, il mio vivere stanco andrà via respirando l'aria fresca che sento, resterà qui con me tutto questo tormento arrivato col vento, andrà via con un pianto in un soffio soltanto, con un salto ridendo se ne andrà via da me. Io te amo, mio amor.